Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alessandro Tiberio di Valmin per presentare il film Un figlio di Mehdi Barzawi al cinema da giovedì 21 aprile 2022. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti e ciao Federico. Tanto tempo che non intervenivo nella trasmissione, vero. Mi fa enormemente piacere, sì, perché anche è un po' la mia ripartenza dell'attività e quindi il film è co-distribuito con I Wonder Pictures. Stiamo uscendo con Un figlio, è un film potentissimo, è un'opera prima di Mehdi Barzawi, che è un regista tunisino che lavora però anche in Francia, infatti il film è una coproduzione Francia-Tunisia, e ha studiato in realtà in Italia, si è formato al DAMS di Bologna. È un film che ho amato molto quando fu presentato, era a Venezia del 2019 e concorreva nella sezione Orizzonti, dove peraltro ha vinto un premio molto importante, la migliore interpretazione maschile per il protagonista Sami Bouajila. Come mai ci abbiamo messo tanto? In realtà è curioso anche il background distributivo, perché questo film era stato acquisito da una società di distribuzione che poi ha avuto degli esiti un po' problematici. Da questa distribuzione era passato nel catalogo di un'altra distribuzione molto grossa e abbiamo dovuto faticare non poco per riuscire poi a ottenerlo, appunto diverso tempo dopo. Poi purtroppo era più o meno il periodo dove scattò insomma il secondo lockdown e siamo dovuti rimanere fermi per un po', e ora invece siamo felicissimi di riuscire a farlo uscire in Italia, tra l'altro in dei cinema bellissimi, insomma a livello nazionale. In Italia abbiamo un po' questo vizio purtroppo di definire la maggior parte delle programmazioni molto a ridosso dell'uscita, però sono sicuramente sopra le 30 sale, c'è una bella copertura nazionale insomma nelle sale d'essai del cinema d'autore, secondo noi più prestigiose insomma del paese. Abbiamo qualche elemento di trama? Il film parla di tante cose. La trama è una coppia con un figlio quasi adolescente, sono appunto in Tunisia, fanno una vacanza in un paese di mare della Tunisia e purtroppo durante il loro viaggio, siamo nel 2011, quindi all'inizio di quello che è poi il fenomeno della primavera araba, e si imbattono in una rappresaglia proprio in mezzo di strada, improvvisata, che spunta fuori dal nulla, in cui purtroppo un proiettile incidentalmente colpisce il bambino. Da qui parte una corsa contro il tempo per salvare la vita di questo figlio, che purtroppo in un paese sicuramente più progressista di altri nel mondo arabo, ma comunque con una cultura che problematiche come trapianto di organi o operazioni di questo tipo sono non ben viste, quindi questi genitori si scontreranno in questa corsa contro il tempo con l'impossibilità apparente di riuscire a dare le cure giuste al bambino. In realtà però, e qui è veramente difficile spoilerare perché una delle caratteristiche del film è che è ricchissimo di colpi di scena e di sottotrame che nascono un po' come thrilling, sviluppando poi appunto la trama con nuovi, come dire, filoni che poi si riconnettono mirabilmente, proprio una sceneggiatura orologeria. Diciamo che questa esperienza per i genitori fa emergere anche degli scheletri nascosti tra di loro, che metterà in crisi il loro rapporto e anche la definizione stessa dell'essere genitore. Uno dei momenti più intensi e forti del film, ma appunto non è solo un film sul dover salvare una vita, è anche un film che riflette su che cosa significa essere genitore e fino a che punto è lecito spingersi per cercare di salvare la vita del proprio figlio. E chiaramente c'è anche il dubbio sul senso del figlio biologico o figlio biografico, quindi tra biologia e biografia che cos'è che alla fine poi conta di più. È una sceneggiatura appunto appunto impressionante perché è proprio un grande film di scrittura. Il regista ha impiegato addirittura 4 anni, mi diceva, per mettere appunto la sceneggiatura alla perfezione, proprio perché c'è questo meccanismo un po' a scatole cinesi in cui ogni svolta narrativa apre a dei percorsi nuovi all'interno della storia, e appunto è stato lunghissimo questo lavoro di polishing per riuscire a far tornare perfettamente il puzzle, del mettere insieme tutti i pezzi nella maniera equilibrata e efficace possibile. E effettivamente secondo noi il risultato è veramente molto molto molto appassionante, perché è un film che quando lo inizi a vedere per 97 minuti non ti molla un attimo e si rimane scolpiato, sospeso fino alla fine, e la fine poi porta una bellissima sorpresa, insomma un finale estremamente forte. Medì appunto anche dal punto di vista proprio della regia e della struttura ha subito in maniera evidente la lezione di un grande maestro come Asghar Farhadi, e il suo film è in qualche modo anche un omaggio a quella concezione del cinema che appunto grazie a delle storie anche intime e private riesce però poi a far riflettere e a denunciare ciò che non funziona nel mondo macro, quindi in questo caso c'è anche un'analisi culturale e sociale abbastanza spietata, e per questo insomma è un film veramente con tanti livelli diversi di lettura e tanti livelli diversi di valore. Poi dopo il premio veneziano appunto a Sami Bouajila di cui parlavo prima, il conti con il miglior attore, in realtà proprio subito dopo che siamo riusciti a riconquistare i diritti per questo film, lo stesso Bouajila ha vinto sostanzialmente tutti i premi possibili concepibili in Francia nel 2021 come miglior attore, a partire dai premi César e premi Lumière. Effettivamente devo dire che l'interpretazione che dà il protagonista maschile, ma anche quella femminile, ma in particolare quello maschile, è davvero da mozzare il fiato, perché è di una intensità, di una bravura, di una misuratezza davvero rare. Il film Un figlio di Mehdi Barzawi al cinema da giovedì 21 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tiberio di Valmin che lo distribuisce insieme a I Die Wonder Pictures. A presto! Grazie e mi raccomando, tutti al cinema. Con Fariborz Kamkari, regista del documentario Kurdbun, essere curdo, a Roma al Cinema Troisi il 19, 20 e 22 aprile 2022 e in uscita al cinema con Officine Ubu. Ben trovato. Buongiorno. Che cos'è questo lavoro? Di cosa parla? È un documentario principalmente costruito su una vicenda storica in Turchia nel 2016 e 2017. È l'assedio di città di Cizre. Questa città è stata assediata perché il consiglio comunale ha vinto un partito che non è stato aggredito dallo Stato turco e quindi ha chiesto a questo consiglio comunale di sciogliersi. E loro non hanno accettato e lo Stato ha mandato l'esercito per assediare la città e poi successivamente ha attaccato la città. C'è stato un giornalista durante questo assedio e poi durante la guerra civile che ha fatto un diario visivo, ha girato giorno per giorno. Questo materiale è stato mandato da me e io ho montato, ho costruito un film che racconta questo assedio, questa vicenda e inoltre dà una panoramica sulla questione curda, sulla storia del popolo curdo, la sua divisione tra 4 paesi e la sua storia nell'ultimo 100 anni, che è stato diviso tra 4 paesi senza essere consultato. E nell'arco di questi 100 anni questo popolo è stato perseguitato praticamente in diverse occasioni e ci sono tanti momenti storici veramente drammatici nella nostra storia. Ho cercato di raccontare non solo la vicenda di Cizre, ma raccontare anche la storia del mio popolo. Come hai raccontato l'assedio e poi come hai raccontato anche la storia del popolo curdo? Ho dato una linea narrativa, diario di questa giornalista che tra l'altro si trovò per caso, stava lì nella zona per fare un altro documentario, però si è trovata lì. In questa città assediata ha deciso di, rischiando la sua vita ovviamente, perché materiali si vede che sono stati girati sotto i bombardamenti, di raccontare la vicenda, però in mezzo ci sono alcuni episodi che cercano di aprire un po' la vicenda. e dare una visione più larga, perché l'assedio di Cise è solo un esempio, è stato raccontato come un esempio di a vari altri esempi in Kurdistan, che Stato praticamente aggredisce il suo cittadini. Questa vicenda di Cise è molto simile a quell'altro che è successo anche in Iran e altri episodi che sono successi in Iraq e Siria. Quindi ho cercato di trattarlo come un esempio, non solo un episodio singolare. La storia del popolo curdo è una storia dolorosa. Io sono stato contattato nel 2018 da questo giornalista che mi ha chiesto se voglio visionare i materiali che ha girato per vedere se c'è la possibilità di creare un documentario, raccontarlo in una chiave più cinematografica. Mi ha mandato prime ore, 5 ore. Io ho visto prima mezz'ora, l'ho richiamato e ho detto sì, penso che è molto interessante. Perché l'aspetto che mi ha colpito di più era la somiglianza con la mia esperienza personale in Iran 25 anni prima di quella data, quando ero bambino e mi sono trovato in una città assediata in Sana'a, città nel Kurdistan iraniano, e l'esercito iraniano ha assediato la città e ha fatto praticamente identica cosa. Quindi questo mi ha sembrato un destino comune di ogni curdo, in qualche modo essere perseguitato, essere aggredito per motivi assolutamente futili. Quindi questa era le linee che ho cercato di seguire tramite ovviamente questi episodi che raccontano la storia del popolo curdo. Com'è il tuo percorso cinematografico? Sono un ex bambino di guerra, sono cresciuto durante l'occupazione del Kurdistan, occupazione militare da parte del governo iraniano, e poi successivamente 8 anni di guerra tra Iran e Iraq. Ho visto tante vite sprecate, tante situazioni. La mia infanzia ovviamente è stata devastata con il primo cadavere che ho visto sotto i miei occhi, sotto i bombardamenti. E quindi ho sentito il dovere di raccontare, perché la vicenda ovviamente, come sappiamo tutti, è stata ignorata dal mondo, quello che successe non solo al mio popolo, ma la storia recente del Medio Oriente. Quindi da bambino mi sono dato questa missione di raccontare, di dare una voce a tutte quelle vite sprecate intorno a me. E il cinema mi ha aiutato, in qualche modo come uno strumento di comunicazione, l'ho trovato molto efficace usare questo mezzo tramite film, raccontare quello che ho visto, come la vita di un cittadino viene devastato, viene toccato, derubato dagli eventi storici che succedono intorno a lui, e dare una voce interna dalla storia recente del Medio Oriente, da una persona che ha vissuto e adesso ha la possibilità di raccontare. E questo è stato il mio percorso cinematografico. In tutti i film che ho fatto, in qualche modo ho cercato di raccontare le storie che non vengono raccontate dalla grande media, non vengono raccontate sinceramente, vengono ignorati spesso per motivi politici, economici e via. E com'è arrivato invece il rapporto con la distribuzione di Officine Ubu? Quando abbiamo montato il film, cercando distribuzione, per fortuna hanno apprezzato il film, hanno pensato che possono darci una mano per divulgare la storia, raccontarlo, portarlo al cinema. È stata un'esperienza molto positiva, spero che potremo continuare anche nel futuro, collaborare insieme. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? C'è il sito di Officine Ubu, ovviamente tutte le informazioni vengono aggiornate lì, e poi varie social media, c'è il mio, c'è sempre l'Officine Ubu o della produzione che è Far Out Films, e lì cerchiamo di aggiornare sempre le date dell'uscita del film in tutta Italia. Il documentario Kurdbun, essere curdo, a Roma al Cinema Troisi il 19, 20 e 22 aprile 2022, il 19 dopo la proiezione, l'incontro in sala con i giornalisti Giuliano Battiston e Alberto Negri e Vincenzo Miliucci della rete Kurdistan, e poi in distribuzione in tutta Italia con Officine Ubu. Un saluto e un ringraziamento alla regista Fariborz Kamkari. A presto. Grazie, buona giornata. Con Alessandro Cassigoli, coregista del film California, al cinema da giovedì 21 aprile 2022, ben trovato. Grazie. Per chi ci ascolta, come lo racconteresti? Direi che si scrive un po' in questa cerchia dei film di formazione. Praticamente una ragazzina che noi in maniera abbastanza non usuale, diciamo, abbiamo aspettato e seguito, fra virgolette, per 5 anni, quindi dai suoi 9 anni ai 14, e vedere una ragazza che muove i primi passi nel mondo anche in maniera abbastanza solitaria e quindi anche così un po' distintiva, senza una guida. E il tutto appunto è dentro a un film che ha comunque un impianto di finzione, no? Non è un documentario, ecco. Come nasce tutto questo progetto? Nasce da un incontro, come poi tutti i nostri progetti. Nel caso specifico avevamo fatto un documentario sempre a Torre Annunziata, che si intitolava Butterfly, sulla storia di Irma Testa, una pugile, e durante le riprese di Butterfly avevamo conosciuto questa ragazzina che all'epoca aveva 9 anni e ci aveva incuriosito per certi suoi aspetti di carattere, anche per la vita che conduceva, eccetera. Questa ragazzina che appunto si chiama Khadija, che poi nel film, che poi è la protagonista di California, si chiama Jamila, è il nome del personaggio. E quindi da questo incontro poi abbiamo iniziato a sviluppare un'idea che poi si è un po' plasmata nel tempo, come succede con questo tipo di lavori, un po' al limite fra il film di finzione e il documentario. E da lì insomma è nato tutto. Quindi diciamo, lei era già in delle scene del nostro film precedente, adesso è diventata la protagonista di California. Il progetto è venuto strada facendo, nel senso l'avete seguita per anni, per 5 anni. Eravate già con l'idea di realizzarne un film nel futuro? Inizialmente c'era un'idea, ma non pensavamo di seguirla poi per 5 anni. Poi in realtà io uso questa parola seguire nel senso che comunque in un certo senso aspetti anche la sua crescita e vai con la sua crescita. Detto questo, però, comunque è un film che aveva poi via via anche una sceneggiatura, che appunto lei comunque recita anche un personaggio, quindi insomma non è documentario di seguire una persona e vedere che succede, ma era appunto poi via via un po' aggiustare le sue fasi di vita o magari anche storie che trovavamo a Torre Annunziata di altri suoi coetanei e metterle dentro al suo personaggio. Detto questo, rispondendo alla sua domanda, no, è stata un'idea che poi piano piano nel corso del tempo si è fatta sempre più chiara rispetto insomma alla durata. Poi a un certo punto abbiamo deciso, insomma, ci sembrava giusto poi di arrivare a una fine, quindi poi ai 14 anni insomma c'è un po' l'epilogo del film. È un modo comunque non convenzionale di fare film, nel senso che appunto di solito i film di finzione, insomma, come sai, si scrive una sceneggiatura, si aspettano i fondi e poi insomma in 4, 5, 6 settimane si girano. Questo ha avuto un percorso un po' diverso, che devo dire insomma ora poi si sta un po' usando questo tipo di approccio. Cosa vi aveva catturato della sua storia e della sua personalità? Già da 9 anni si intuiva un carattere molto, molto tosto, molto determinato, e questo ci piaceva. E dall'altra il fatto che comunque lei in realtà non avesse una reale guida, la famiglia, i genitori lavorano tutto il giorno, i fratelli uguale lavorano, e quindi lei è come se si sia trovata un po' a muovere i primi passi nella vita da sola e quindi insomma a esplorare un mondo con delle intuizioni più che con degli insegnamenti, ecco. E questo ci affascinava molto. Poi insomma aveva anche una sua ironia che comunque ci piaceva, e quindi da lì ovviamente anche un po' in maniera istintiva, perché poi insomma quando inizi non sai tutto, però insomma ci sembrava una persona da esplorare. E poi dopo nel tempo abbiamo deciso insomma anche con lei di crearle poi questo personaggio che ovviamente ha molto delle sue caratteristiche, ma che poi abbraccia anche caratteristiche di altri suoi coetanei, insomma. Che uscita sarà? Il film uscirà con Fandango a Roma, saremo in esclusiva al Cinema Troisi. Giovedì 21 ci sarà la prima, però insomma ci tengo a dire che il film rimarrà in programmazione al Cinema Troisi per 2 settimane, quindi non è una proiezione, evento e finisce tutto lì, ma il film starà lì per 2 settimane. Poi saremo anche a Firenze, Bologna, Milano, Napoli, insomma un po' nelle principali città, ovviamente magari in un cinema città, però per questo tipo di film insomma va bene, si spera poi un po' nel passaparola e nel fatto che la gente un po' torni al cinema, ecco. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più sulle sale? Non c'è un sito del film, però per quanto riguarda la distribuzione, Facebook e l'Instagram di Fandango, dove ci saranno tutte le informazioni. Il film California è al cinema da giovedì 21 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Alessandro Cassigoli. A presto! Grazie Federico, un saluto a tutti. Con la produttrice Deborah Desio per presentare il film Darkling di Dušan Milić al cinema da giovedì 21 aprile 2022. Ben trovata. Grazie, grazie a voi. Di che storia si parla? È una storia quantomeno attuale, tristemente attuale in questo momento, perché parla di guerra, non è concentrata sulle vicende politiche, ma è concentrata, è un thriller psicologico come genere, sulle difficoltà delle persone a uscire dalla guerra e quanto in realtà la guerra lascia delle cicatrici interne molto profonde che poi proprio impediscono un ritorno alla vita normale. È un film molto profondo e intenso che invita proprio a riflettere ed è raccontato attraverso gli occhi della protagonista che ha 12 anni e lei vive un po' questa famiglia dove il nonno è un po' vecchio stampo, sua madre cerca di mediare un po' la generazione di mezzo e lei Milica che invece guarda al futuro, quindi ha meno attaccamento al territorio e vorrebbe andare via per avere una nuova vita. Questa un po' è la domanda a cui cercano di rispondere i tre protagonisti del film, se lasciare questo territorio devastato dalla guerra e reinventarsi una vita fuori o se lottare e rimanere. E su questo si scontrano le tre generazioni, il punto di vista femminile della mamma quanto quello maschile del padre, e su questo ovviamente incombe questa guerra, questa tensione costante, questa paura che tutto possa ricominciare. Com'è nata questa partnership internazionale rispetto alla produzione? È andata bene, è stata un'esperienza molto bella. Per la prima volta ci siamo trovati a lavorare 5 stati, per la prima volta in particolare Italia, Serbia, Bulgaria, con Danimarca e Grecia, quindi molto articolata. Un'esperienza sul piano delle carte di produzione un po' ecco difficile, ma fattibile. Sul piano di produzione inteso come set è un'esperienza a mio avviso molto bella, perché la troupe proveniva dall'Italia, dalla Serbia e dalla Bulgaria ed è stato molto bello vedere e capire parti di nazionalità diversa, creare un'unica troupe, lavorare insieme, portare le proprie esperienze ma anche proprio la scuola di cinema che loro hanno alle spalle diversa, unire tutto quanto e portare fuori un prodotto armonioso con un linguaggio internazionale. E questo anche sul piano umano è stato bellissimo. In particolare abbiamo testato anche nuove tecniche di ripresa. Alcune scene, soprattutto quelle in Moscow, abbiamo usato una cable cam, abbiamo usato un drone light, su questo siamo stati supportati da maestranze molto specifiche italiane, quindi si è andato un po' a usare e il risultato è insomma soddisfatto tutti. Come era partito tutto e cosa ti convinceva del progetto? È partito da un pitch, nel più classico dei modi, nulla di più. Erano venuti nel 2017 la produttrice serba e il regista Dušan Milić al Venice Midwest, il festival che c'è a Trieste, e hanno pitchato il progetto. Materiali presentati pochissimi, veramente una logline e una sinossi molto corta. L'incontro era di quelli classico a tempo con le campanelle. A me aveva incuriosito questo progetto in cui si parlava della guerra e di quanto la guerra rendesse difficile un recupero della normalità dopo. Aveva colpito questa cosa. Ho parlato con loro e loro cercavano in particolare un coproduttore italiano, perché una parte del film racconta i militari italiani nella guerra nei Balcani e quanto hanno lasciato un'impronta positiva nella popolazione, perché sebbene loro sono stati attenti a seguire tutti i protocolli, insomma rispettosi di quello che era il ruolo militare, il carattere italiano, quindi quell'essere attento anche alle persone, pronti a dare una mano, è una cosa che è rimasta molto forte, per cui dire che sei italiano in quella zona e lavorare un po' su questo sentimento positivo che hanno lasciato i soldati prima e quindi essere ben accetti subito. Un esempio che loro mi hanno fatto è che mentre altri soldati arrivavano e con un calcio aprivano la porta, gli italiani arrivavano, bussavano e chiamavano, e per loro questo era paradiso, cioè era avere a che fare con gente umana, per cui loro cercavano proprio un partner italiano, perché un grosso pezzo del film riguarda proprio il contingente militare italiano, quello sotto la KFOR. E di lì abbiamo iniziato a ragionare sul progetto, sulla fattibilità della coproduzione. Non sono andate bene ovviamente tutte le call che abbiamo presentato di contributo, però insomma alla fine la tenacia paga, perché il film l'abbiamo portato fuori bene. Rispetto alla regia, ci sono lavori precedenti che conosciamo in Italia? In Italia no, però lui nel 2009 è stato premiato al Festival di Berlino per un film precedente. Dusan Milic inoltre è lo sceneggiatore di Kusturica, per cui è un lavoro a quattro mani fatto con lui, un po' vive il riflesso di questo e lo si ritrova abbastanza nei suoi lavori, anche se lui ha questa vena un po' più tenebre e ha un lavoro un po' più europeo, ecco. Però ha preso questo premio nel 2009 e adesso i premi li stiamo raccogliendo con Darkling. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sulla pagina social dello scrittoio, che è il nostro ufficio stampa e partner preziosissimo per questo progetto, oppure Alaba, che siamo noi, la società di coproduzione. Non c'è una pagina dedicata in italiano al film, ma c'è in serbo, se qualcuno vuole cimentarsi loro aggiorneranno, ecco, un po' anche la distribuzione nei 5 stati che sta uscendo su tutti, e comunque su Alaba e lo scrittoio si trovano tutte le informazioni. Il film Darkling di Dusan Milic al cinema da giovedì 21 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento alla produttrice Deborah Desio. A presto! Grazie a voi, grazie! Con Silvia Brunelli, regista del film La Santa Piccola, in tour da mercoledì 20 aprile 2022, ben trovata. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ce ne parli? È un film dolce e amaro che vive di molti contrasti, a dir la verità, ambientato a Napoli, ed è la storia di due ragazzi che sono degli amici fraterni, si conoscono da una vita e sono cresciuti insieme in un piccolo rione di Napoli. Noi l'abbiamo girato alla Sanità. Questi due amici fanno una vita molto banale, molto piatta, cioè non hanno nessun tipo di aspettativa, è una vita che va avanti senza niente di bello né niente di brutto, finché la sorella di uno dei due, durante la processione del quartiere, fa un apparente miracolo, e a seguire appunto ce ne saranno altri di apparenti miracoli, il che la fa eleggere a santa protettrice del rione e porterà un'aria di speranza per tutta la gente del quartiere. Soltanto che tutto ciò avrà delle conseguenze abbastanza pesanti sulla loro amicizia, perché insomma scopriranno che là fuori c'è un mondo e che vivere nel mondo là fuori può portare su percorsi differenti da quelli che si erano immaginati per se stessi. Come era nato tutto? Questo film nasce in Biennale College Cinema, che è il programma di sviluppo per film a micro budget bandito dalla Biennale di Venezia. Io e Francesca Scanu siamo approdate nell'edizione 2019 con un'idea molto allo stato embrionale, ispirata al libro di Vincenzo Restivo, La Santa Piccola. Poiché per la Biennale College si fa un percorso di sviluppo di scrittura cinematografica, chiaramente abbiamo adattato quello che poi è stato il film La Santa Piccola ad un racconto cinematografico, ci siamo distaccate quasi completamente dal libro e abbiamo vinto appunto il percorso in biennale, abbiamo vinto il finanziamento di 150.000 euro della Biennale College e l'abbiamo realizzato. Rispetto al testo, su cosa ti sei focalizzata? È stato molto difficile staccarsi dal testo di riferimento, perché è stato prima di tutto fondamentale per me capire cosa assolutamente non volevo raccontare. Il testo del libro è un testo molto drammatico ed è centrale la tematica LGBT. Invece io volevo assolutamente scrivere e dirigere un film che non avesse le caratteristiche totali del dramma, ma che oscillasse tra dramma ed elementi di commedia, e soprattutto non volevo la linea esclusivamente LGBT, nel senso, questo è un film che tratta anche di tematiche LGBT, ma anche di tanto altro, cioè un film che parla di umanità fragile e indifesa e impaurita prima di tutto. Attraverso la linea LGBT sviluppiamo parte del tema, chiaramente, però insomma non è solamente un racconto LGBT, cosa che invece è il testo del libro. Del libro cosa avevi apprezzato? Il libro mi è stato sottoposto dal produttore perché sullo sfondo, in maniera molto blanda, è respirato ad un fatto di cronaca di Caivano, e io avevo scritto all'epoca un cortometraggio sullo stesso tema, quindi il produttore, che sapeva che avevo l'interesse a approfondire quel fatto di cronaca, mi mandò il libro. Però poi è stato tutto un susseguirsi di eventi uno di fila all'altro che poi ci hanno portato allo sviluppo del film. Che scelta distributiva hai fatto? In Italia il film viene distribuito dai produttori stessi con la collaborazione di Amera Film, quindi è un'autodistribuzione. Tuttavia le vendite estere sono seguite da Minerva e TVCO, è in mano loro il percorso del film. Al momento stiamo girando il mondo avventurandoci nei festival cinematografici e appunto dal 20 finalmente usciremo in sala e sarò molto contenta perché prima di tutto io ho già seguito il film all'estero, ma fatto Salvo Venezia, una proiezione al cinema Troisi, ancora non eravamo riusciti a farlo vedere al pubblico di casa, quindi sono molto contenta per questo e soprattutto sono molto contenta perché è un momento storico in cui portare un film in sala è veramente molto difficile, a maggior ragione per film comunque che sono molto piccoli e indipendenti, quindi sono doppiamente contenta perché comunque ci stiamo riuscendo e spero di portare insomma dei buoni risultati. Dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Si può seguire la pagina Facebook della Santa Piccola e la pagina Instagram della Santa Piccola. Il film La Santa Piccola, il tour da mercoledì 20 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Silvia Brunelli. A presto! Ciao, grazie a te, ciao! Con Francesco Siciliano, uno degli ideatori e produttori della docuserie Scuola di Danza, i ragazzi dell'opera, su RaiPlay da giovedì 21 aprile 2022, ben trovato. Buongiorno, ben trovati voi, grazie, grazie. Ce ne parli? Possiamo dire una naturale filiazione di un altro programma che avevamo fatto l'altro anno con Panama Film insieme a Paolo Rossetti, Riccardo Brun e Annalisa Mutariello, che sono gli autori anche insieme a me di Scuola di Danza, che si chiamava Corpo di Ballo. Lo scorso anno fu il racconto dell'anno pandemico da dentro il Teatro La Scala con il Corpo di Ballo, cioè con i più grandi ballerini italiani, e quest'anno invece siamo entrati dentro una prestigiosissima scuola di formazione di danza che è l'Accademia di Danza del Teatro dell'Opera di Roma e abbiamo raccontato invece un anno di scuola. È la danza il punto comune in realtà, perché lo scorso anno fu un racconto di osservazione di un momento difficilissimo come la pandemia e con i teatri che riaprivano ma poi richiudevano eccetera eccetera, quindi possiamo immaginarci, mentre quest'anno abbiamo raccontato un gruppo di ragazzi adolescenti che sono dei ragazzi speciali, che hanno una grande forza di volontà, una grande dedizione e soprattutto un grandissimo talento, che però è costruito. La televisione racconta sempre il cosiddetto talent show come se fosse un luogo in cui si scoprono i talenti, ma il talento è una cosa che si coltiva tutti i giorni con grande fatica e dedizione. Ecco, questi ragazzi sono dotati di talento, ma ci fanno un discreto lavoro. Ce la mettono tutta e sono straordinari, ma sono dei ragazzi adolescenti, per cui contemporaneamente staremo vicino a loro in questo anno, li conosceremo bene, capiremo quali sono i loro sogni, quali sono le loro anche debolezze, quali sono i loro amori, qual è la loro vita reale oltre la scuola di danza, ed è, devo dire, data la disponibilità e anche il rapporto che si è instaurato di lavoro con loro, che siamo riusciti a raccontarli quasi senza che si accorgessero dal nostro lavoro. Quante sono queste giovani persone che avete seguito e com'è stata la scelta? Sono 8 protagonisti, 4 ragazze e 4 ragazzi. Quando fai un racconto come il nostro e hai la disponibilità di uno spazio importante come l'Accademia di Danza del Teatro dell'Opera, in realtà all'inizio i ragazzi sono tutti uguali, poi è il nostro tipo di racconto che è un docufatto, è un documentario fatto con i protagonisti dal vero. Quindi sono loro che si avvicinano a noi, o anche un pochino noi che li stimoliamo in questo senso, attraverso la loro capacità nel lavoro che fanno, ma anche attraverso la loro personalità. Ci sembrava importante raccontare 8 ragazzi che fossero in qualche modo, a nostro avviso, particolarmente speciali e narrativamente interessanti. Anche gli altri che ci sono intorno, 8 sono tra virgolette protagonisti, ma è la scuola in senso esteso, con i professori, con la direttrice, con tutto il mondo che ruota intorno alla scuola. È una vera scuola, non è una scuola finta, come può essere accaduto in altre trasmissioni, è una vera scuola con dei veri professori, con dei veri studenti, con dei veri esami. Che quadro ne viene fuori e che impressioni tu ne hai ricavato? Sai, viene fuori sempre un paese che non ti aspetti. Cioè è chiaro che ragazzi di questo tipo che stanno in una scuola così arrivano da tutta Italia. E non soltanto, perché è una scuola d'eccellenza, perché una volta ammessi i ragazzi possono pensare di avere un futuro da professionista importante, sono le scuole dalle quali escono poi i più grandi ballerini italiani, come poi frequentano e calcano tutti i più importanti palcoscenici d'Italia e del mondo. È una scuola molto complicata, non è facile entrare, non è facile stare dentro, perché si entra a 12 anni, 11, e si resta fino alla maturità, perché contemporaneamente i ragazzi vanno a scuola e tutti i pomeriggi della settimana fanno ore di allenamento e lezioni di danza, perché sono dei professionisti, sono come degli atleti, e la selezione è una selezione da un lato attitudinale appena entrano, e poi i ragazzi stanno durante l'adolescenza, che è l'età in cui si cambia anche da un punto di vista fisico. Può accadere che alcuni ragazzi non abbiano più un fisico adatto per essere ballerini, ci si trasforma, quindi o sei Roberto Bolle, quindi sei il più bravo ballerino del mondo e allora puoi ballare anche se sei alto 1,92, ma tendenzialmente devi avere una grazia e anche una fisicità che sia il tempio di quella grazia. Quindi è molto complicato essere quel gruppo di persone là. La docuserie Scuola di Danza, i ragazzi dell'opera, su RaiPlay da giovedì 21 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli ideatori e produttori, Francesco Siciliano. A presto! Io voglio ringraziare il Teatro dell'Opera. Grazie! Con Claudio Uberti, regista del film Bocche Inutili, al cinema come uscita evento dal 25 al 29 aprile 2022. Ben trovato! Grazie a voi per l'invito, è un piacere conoscervi. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? Questo è un film che racconta della femminilità negata, a me piace definirlo così. È un film tutto al femminile, ambientato nel campo prima di Fossoli e poi di Ravensbrück durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi 1944, ma questo è il contesto generale per raccontare un qualcosa di più profondo, secondo me, che è appunto la femminilità negata, cioè il concetto dell'interruzione della generazione, quindi della generatività della donna, e di tutto quello che è stato la Shoah, quindi questa situazione assolutamente terribile che si è vissuta in quel periodo, che però porta a quella speranza di poter sopravvivere, di poter tornare a generare. Tanto è vero che Esther, che è la protagonista del nostro film, scoprirà nel campo di Ravensbrück di essere incinta, e a quel punto un gruppo di donne si uniranno a lei per cercare di salvare prima la sua vita e poi evidentemente quella del bambino, quindi il salvare la generazione, quello che gli ebrei dicono generazione in generazione. Come è partito tutto? Ma il progetto è nato dal desiderio di voler raccontare un qualcosa di nuovo dal punto di vista cinematografico, che era quello appunto delle donne nei campi di sterminio, perché se ne è sempre parlato molto poco ed è una situazione abbastanza delicata solitamente, perché il mondo del femminile per il mondo ebraico è un qualcosa di estremamente importante, perché un uomo nascituro è ebreo se è di madre ebrea, quindi ha una trascendenza matriarcale, e questa cosa mi ha sempre molto affascinato. E parlare di questo femminile, tema negato, che non era solo di violenze, di soprusi, di morte evidentemente, ma era proprio il voler cancellare quello che era la femminilità, cioè quindi il taglio dei capelli, quindi il vestirsi con questi pigiamoni, non avere le scarpe, avere anche tutto ciò che era l'intimo sotto in modo assolutamente spaiato, cioè tutto quello che poi alla fine rende importante il concetto di femminilità, ma nel senso più alto del termine, non è il vedere al vestito, ma per una donna questo era ancora più umiliante rispetto ad un uomo. Ecco, è partito da questa idea e da qui è nato il film. Hai anche usufruito di una documentazione in proposito? Assolutamente sì, mi sono avvalso di due figure estremamente importanti, sono la professoressa Nodari, che è una filosofa morale proprio legata al mondo ebraico in maniera molto stretta grazie a tutti i suoi libri che ha scritto sul mondo del femminile e della Shoah, e della professoressa Anna Foa, che è una delle più grandi storiche che abbiamo in Europa, peraltro ebrea, che mi ha aiutato chiaramente a sviscerare tutti quei temi estremamente complessi del mondo ebraico. Come hai deciso di strutturarlo? Noi siamo partiti dal concetto del racconto del campo di Fossoli, che è a Carpi, dove appunto noi abbiamo girato proprio all'interno di quel campo, quindi c'è stato anche tutto questo aspetto del reale, perché poi quando si entra in certi luoghi non si può rimanere indifferenti, anche se si sta facendo un elemento di finzione, chiaramente come un film, però girarlo esattamente dove questo è accaduto, dove poi peraltro è passato anche Primo Levi da lì, quindi comunque è una parte di storia estremamente importante, ma era raccontare il campo di Fossoli perché è un campo che non è mai stato raccontato, che era il campo di transito, dove le persone stavano in una sorta di limbo, dove dovevano essere giudicate, ed era come una specie di carcere, nel senso che avevano i loro vestiti, non li tagliavano i capelli, subivano comunque delle violenze, ma avevano uno spazio interno dove poter andare ad acquistare i prodotti alimentari qualora avessero avuto disponibilità, e nello stesso tempo avevano anche questi colloqui parentali, che erano estremamente importanti perché erano come una staffetta tra il dentro e il fuori, cioè quello che fuori stava accadendo visto dai civili e quello che loro vivevano all'interno, e stavano nell'attesa di poter essere giudicate da queste follie della razza per capire se poter essere o liberate oppure mandate in campi di lavoro oppure mandate nei campi di sterminio come appunto Auschwitz, Birkenau e Ravensbrück. Dopodiché siamo passati al campo di Ravensbrück, che è un altro unicum nel mondo della Shoah, perché era l'unico campo di sterminio totalmente femminile e che adesso è stato completamente distrutto ovviamente dal tempo, ma che noi abbiamo ricostruito sempre a Carpi, e abbiamo ricostruito questa baracca che è un po' il filtro tra il dentro e il fuori, anche qui sempre il gioco di queste finestre, dove fuori c'è la brutalità e l'assurdità nazista e all'interno una parvenza di famiglia e quindi di voler stare unite e non perdere il senso di umanità che ovviamente i nazisti volevano che venisse perso, venisse tolto. La scelta di questo titolo? Bocche inutili era la definizione che veniva data delle donne da parte dei nazisti nel campo di Ravensbrück, nel senso che mangiavano, creavano solo problemi, ma non davano nulla in cambio. Ci parli anche di quest'uscita evento e in quante sale? Allora il 25 di aprile faremo l'anteprima nazionale a Roma, dopodiché uscirà in tutta Italia 26, 27, 28 con alcune punte anche 29 e 30 e anche qualche giorno a maggio, e sarà uscita in circa 50 sale. Per cominciare a fare la prima uscita, come si dice, ecco, poi ci auguriamo che il film possa piacere e quindi poter avere ancora più divulgazione. Per saperne di più anche rispetto alla distribuzione, ci dai tutti i riferimenti web? Le sale le potete controllare sul sito wellsee.com, che è un coproduttore del film, dove ci sono tutte le date, tutte le uscite evento, dove saremo anche presenti con il cast, perché noi saremo presenti a Roma, a Carpi, a Torino, a Milano, ad Agrigento, a Bologna, quindi cercheremo di fare anche un tour intorno a questa cosa con il cast e la mia figura, perché cerchiamo di sensibilizzare soprattutto il tema, perché questo è un film che sicuramente esce nelle sale per tutti evidentemente, ma nello stesso tempo credo che abbia anche una valenza dal punto di vista educativo, e quindi poi lo proporremo anche alle scuole, a tutti quelli che sono i canali educational. Il film Bocche inutili, in uscita evento dal 25 al 29 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Claudio Uberti. A presto! Grazie a voi, grazie, arrivederci. Con Cristina Zanetti, co-direttrice artistica della 17ª edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women a Roma. Nuovo Cinema Aquila dal 22 al 25 aprile 2022. Ben trovata. Grazie mille Federico, grazie mille Radio Onda Rossa per ospitarci e aiutarci così a anticipare questo festival. Ci sentiamo ogni anno per parlarne, ci sentiamo ogni anno con te, raccontiamolo per chi non lo conoscesse. Immaginaria nasce molti anni fa, molti più degli anni che dimostra, perché al momento è una 17enne, ma in realtà ha avuto alterne vicende, quindi la sua storia è più lunga. Nasce a Bologna e adesso si è trasferita a Roma per tutta una serie di ragioni storiche, ma anche perché a Roma mancava un festival di questo genere, con questo taglio, cioè con questo approccio al cinema, vale a dire presentare, portare sullo schermo tutti i film diretti e scritti da donne. Quindi c'è lo sguardo femminile a 360 gradi su quelle che sono poi le tematiche, le situazioni, le storie, le personaggi del mondo femminile a 360 gradi. Come si struttura questa edizione? Dura 4 giorni, quindi parte venerdì 22 aprile con una cerimonia inaugurale e la proiezione di un'anteprima italiana. Dopodiché prosegue il sabato, la domenica e lunedì, andiamo proprio in coincidenza col 25 aprile che celebreremo a modo nostro, appunto, con un documentario diretto da Nadia Pizzuti su una partigiana, Alba Meloni, Stella nelle mie stanze si chiama il documentario, e avremo anche una rappresentanza dell'AMPI, dell'Associazione Nazionale Partigiani, e anche una partigiana vera e propria in carne ed ossa, e siamo onoratissime di averla tra noi. Ci sono 37 titoli quest'anno e eventi abbastanza eccezionali. Per esempio, grazie alla partnership col Centro Sperimentale di Cinematografia, avremo al festival in presenza la regista afghana Sara Karimi, della quale proietteremo un film del 2019 che si chiama Ava Mariam Ayesh, un film che è stato premiato alla Biennale di Venezia e che è stato portato anche agli Oscar come migliore film straniero. Lo proponiamo perché ci darà modo poi di fare un dibattito con la regista, che è riuscita a fuggire proprio all'ultimo momento nell'agosto dell'anno scorso, 2021, grazie anche alla chiamata, direi così, di Marta Donzelli, la presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, che l'ha invitata a tenere un corso di lezioni per l'anno accademico in corso di innovative storytelling, e quindi ci sarà questo dibattito sulla situazione delle donne afghane con la giornalista Carmen La Sorella collegata con noi. Ci sarà con noi Bianca Pomeranzi, che si occupa alle Nazioni Unite di politiche di genere. E dunque questo è un appuntamento molto importante e anche molto triste, purtroppo, dato l'argomento e in concomitanza appunto con la guerra in un altro paese europeo, no? E insomma è sempre molto importante che i festival del cinema portino sugli schermi e tra la gente le voci di chi al momento non ne ha almeno possibilità di esprimersi, di manifestare e di raccontare le situazioni che vengono a crearsi, insomma. E dunque questo è un momento molto importante. Un altro momento molto importante che mi verrebbe di sottolineare ce l'abbiamo col documentario The Women of the Bauhaus. Anche questa è una collaborazione con il Goethe Institute, è un documentario di Susanne Radeloff, sarà presente la regista e anche questo documentario sarà seguito da un panel, da un dibattito, ed è particolarmente importante perché ricostruisce la storia, a parte del Bauhaus, la scuola dell'avanguardia, no? Dal punto di vista dell'architettura e del design, scuola che ebbe una vita relativamente breve, cominciò nel 1919 e finì nel 1933 a Berlino, proprio con l'avanzata del nazismo, che la chiuse perché era ritenuta una scuola troppo sovversiva. Ma il documentario fa il focus sulle donne, sulle 500 artiste che frequentarono il Bauhaus e i cui oggetti di design sono diventati famosissimi, sono diventati dei must e tuttora vengono venduti e prodotti, mentre loro però invece sono state oscurate, no, dai colleghi uomini. Quindi abbiamo il recupero di una serie di artiste, i loro nomi e le loro opere, e questo è un bellissimo documentario, appunto, con la regista, con una ricercatrice che l'affiancherà, Chiara Bellingardi, Joachim Bernauer, direttore del Goethe, e Carmen Hoff, responsabile della Cineteca del Goethe. Anche questo insomma è un momento alto del festival. Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Possiamo vedere tutto il programma sul sito www.immaginariaff.it, dove possiamo vedere le modalità di tesseramento per l'accesso al festival e soprattutto altri eventi, quali presentazioni di libri. Ci terrei a dirne due, per esempio presentazione del libro che è un saggio sul cinema, Architetture del desiderio, il cinema di Céline Chammat, è un saggio curato da Federica Fabiani e Chiara Zanini sull'opera di Céline Chammat, quindi, e contiene anche un'intervista di Céline Chammat, notissima regista peraltro, che tutti conosciamo per il ritratto della Giovane in Fiamme e tantissimi altri film molto importanti. Un'altra presentazione che tengo a citare è quella di Veronica e il Diavolo, un film scritto da Fernanda Alfieri, edito da Einaudi, ed è la storia di un esorcismo, letta naturalmente in un'ottica storica e di gender studies, e quindi anche questo è un momento molto importante. Comunque, questo ed altro si trova appunto, come dicevo prima, su www.immaginariaff.it, e poi siamo anche sulla pagina Facebook e su Instagram. 17ª edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, a Roma al Nuovo Cinema Aquila dal 22 al 25 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Cristina Zanetti. A presto! Grazie mille a voi, grazie. Con Vladimir Luxuria per la direzione artistica della 37ª edizione del Festival Lovers a Torino dal 26 aprile al 1 maggio 2022. Ben trovata. Salve. Lo raccontiamo a chi non lo conosce? È un festival dedicato al cinema bello, emozionante, che fa divertire, che fa riflettere, che fa commuovere. Il cinema si divide tra film belli e film brutti, non ci sono altre divisioni. Il nostro è una tematica LGBTQ+, ma sono film belli, lungometraggi belli, cortometraggi e documentari, quindi è quello che fa la differenza, che c'è una squadra meravigliosa che è riuscita a selezionare tra i film a questa tematica più belli, più emozionanti da tutto il mondo, e ci sarà la possibilità solo a Torino, al Cinema Massimo, grazie al Museo Nazionale del Cinema, di poterlo vedere. È anche il festival europeo, il primo in ordine temporale per le tematiche LGBT+. Sì, è stato il primo in Europa, esatto, uno dei più antichi del mondo, in un'epoca in cui non c'erano tanti festival dedicati a queste tematiche. Oggi siamo felici che ce ne sono tanti, anzi noi abbiamo aperto anche una collaborazione per esempio con un festival simile, che è il Mix di Milano, ma anche con altri, Albania, Cipro quest'anno, Praga e la Francia. Com'è strutturata questa edizione? Si comincia il 26 con l'inaugurazione proprio dentro la Mole Antonelliana, quindi una cosa favolosissima, con drink, perché quest'anno ci potranno essere i drink, snack, perché quest'anno ci potrà essere addirittura un po' di buffet, e la presenza come madrina di Barbara Boucher, con la quale parleremo della sua carriera cinematografica e soprattutto di come nella commedia sexy all'italiana si usava proprio la bella donna come modo per ribadire la propria virilità, con anche battute a volte un po' pesantucce e anche un po' omofobe, quindi sarà bello parlare di questo, e con le Karma B. Ma poi ci saranno tanti ospiti, in chiusura avremo Sabina Guzzanti, poi avremo anche il concerto venerdì di Michele Bravi da Sanremo, e poi ancora faremo un talk su sport e inclusione con Evelina Cristellena, Antonio Caprini e Mauro Berruto. Insomma, è un programma davvero ricco ricco. Ci saranno autori e autrici a presentare le loro opere? Finalmente si può viaggiare rispetto ai due anni precedenti dell'Overs con il Covid, che non potevamo ospitare, quindi ci saranno registi, attori, sceneggiatori. Finalmente si ritorna alla nostra splendida favolosità e normalità. Vladimir, come stai caratterizzando il festival con la tua direzione artistica? Ma intanto sono riuscito ad allungarlo, nel senso che finalmente il festival quest'anno è più lungo, dura 6 giorni. Sai, in realtà questo sarebbe il mio ultimo anno, secondo contratto, però già ci sono segnali di corteggiamento, diciamola così, almeno qualcuno mi corteggia da questo punto di vista, e quindi si sta pensando a un grandissimo programma per il 40° anniversario, appunto, che ci sarà tra 3 anni. Diamo dei riferimenti web per i dettagli? Siamo dappertutto sui social, basta trovare Lovers Film Festival. A tuo modo di vedere, visto che sei nella direzione artistica da qualche tempo, quali sono le tematiche più battute in questo mondo LGBTQ+? Il tema dello sport, secondo me, è un tema molto forte, molto dibattuto, anche di recente. E noi cominciamo proprio con un film dedicato proprio allo sport, un film inglese di Matt Carter che si chiama In From The Side, un film fuori concorso, in cui si parla di rugby, no? L'idea appunto che rispetto a qualche dichiarazione recente non bisogna essere necessariamente etero per fare qualsiasi tipo di sport. E poi ci sarà anche un talk proprio su sport e inclusione, perché sabato 30, perché avremo Evelina Cristelen, Antonio Cabrini e Mauro Berruto proprio per parlare del tema di discriminazione sport. E poi anche l'Ucraina è entrata nella nostra tematica. Io ho invitato giovedì una cantante trans ucraina che si chiama Zifamelu, che oggi ha lo status di rifugiata in Germania, per parlare della triste condizione di alcune trans che ancora non sono riuscite a cambiare il proprio genere sul passaporto e che sono state respinte alla frontiera ucraina perché considerate uomini e quindi devono andare a combattere. Una persona che ha sempre avuto in mano un rimmel le chiedono di mettersi un fucile per andare a combattere. Lei è riuscita a fuggire tuffandosi in un fiume gelido di frontiera in Romania, inseguita dai poliziotti. Adesso appunto lo status di rifugiato, non ha più nulla, mi ha detto che ha solo la voce, e noi daremo a lei la possibilità di potersi esibire sul palco dell'Overs. 37esima edizione del Festival Lovers a Torino dal 26 aprile al 1 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Vladimir Luxuria. A presto! Grazie a voi, ciao! Con il critico cinematografico Enrico Magrelli per presentare il film Memory Box di Joanna Hagi Thomas e Khalil George al cinema da giovedì 14 aprile 2022, distribuito da Movies Inspired. Ben trovato Enrico. Ben trovato e ben trovate tutte le persone che avranno voglia di ascoltarci. C'è un film che ci è piaciuto, raccontiamo brevemente di cosa si tratta. Una storia apparentemente molto lineare e anche molto semplice, che non vuol dire banale. Siamo in Canada, periodo di feste natalizie, e un giorno arriva a casa di questa ragazza, che è la coprotagonista insieme alla madre del film, uno scotone che arriva da lontano, inviato da un'altra donna che non ha mai sentito nominare, e questo scatolone, che poi dà il titolo al film, è pieno di ricordi, ricordi fatti da un diario, fatto da biglietti, da lettere, da tantissime fotografie, anche da audiocassette, e sono il frutto della corrispondenza fra la madre della giovane protagonista e una sua migliore amica in assoluto. Questi materiali nei quali la mamma della protagonista racconta a un'amica che non sta più in Libano la cronaca di quello che stava accadendo in Libano all'inizio degli anni 80, quando il Libano era alle prese con la guerra civile fra diverse fazioni. È un film che ha molti elementi di interesse, per cui la trama, come accennavo prima, apparentemente è molto semplice, molto lineare. Una madre, una figlia, tanti ricordi e soprattutto un momento della storia mondiale martoriato dalle bombe e dalla morte. Questo, anche se non dovrebbe farlo, questo leggere, guardare, riconoscere, capire il passato della madre, che all'epoca aveva più o meno gli anni della figlia, è un momento di scoperta più dettagliata della madre, e nello stesso tempo è un modo fra le due protagoniste di ritrovarsi, avvicinarsi. Nello stesso tempo però c'è l'elemento della guerra, che ha dei danni fisici, che porta morte, ma che pesa anche moltissimo sulla vita delle persone, anche se guardando le foto si scopre che nonostante la tragedia ci possono essere dei momenti di allegrezza, di leggerezza, no? Che sembra assolutamente un paradosso, ma no? Una leggerezza tragica. E il film lavora su questi materiali, sia sui materiali scritti, i diari tenuti dalla madre, ma soprattutto sulle tante foto, in modo molto interessante da un punto di vista cinematografico. Queste foto a loro volta vengono fotografate dalla figlia, vengono condivise con altre amiche sui social, e quindi queste foto che fissano per sempre dei momenti, delle età, delle giornate, delle passeggiate o anche dei momenti più contraddittori, trovano una nuova vita. Ovviamente c'è uno scarto molto forte fra l'uso contemporaneo delle foto e soprattutto la comunicazione fra le amiche, come dimostra la scatola piena di memorie, aveva un tempo, un'articolazione, se vogliamo anche una complessità decisamente più vitali, più profonde, più interessanti di quello che può accadere oggi. Non voglio dire che l'amicizia negli anni Ottanta era diversa, diciamo che le modalità per condividere emozioni, esperienze erano decisamente diverse. E quindi è un film che apparentemente sembra un film domestico, legato all'universo dei rapporti fra una madre e una figlia, grazie allo sguardo sul passato, a questo rimbalzare costantemente tra il Canada di oggi e il Libano di qualche decennio fa, è un altro elemento di dinamismo e di interesse del film. Sì, come ti dicevo prima, conversandone fuori onda, due elementi hanno risuonato in me fortemente. Il primo relativo ai rapporti, la guerra come trauma che spezza amori e amicizie, e dall'altra l'importanza della memoria, perché come dicevamo questi diari sono il frutto di una corrispondenza reale e c'è una dedica finale ai figli che è molto toccante. Infatti mi leggo subito al secondo elemento. Il film è tratto da un epistolario che è stato pubblicato, un epistolario fra persone che non è un'invenzione letteraria, ma no, fra due persone realmente esiste, e quindi un giorno bisognerebbe cercare di capire perché c'è questo grande bisogno da parte dei cineasti, dei sceneggiatori, di ispirarsi a storie, a persone vere, no? È come se il cinema avesse bisogno, almeno una parte del cinema, di fare i conti con la realtà. Anche nei film che poi sono dei film di finzione, che non sono dei documentari. L'altro aspetto che sottolineavi, che è molto importante, è che la guerra distrugge e lascia delle rovine anche in quelli che sono i rapporti umani, i rapporti d'amore, d'amicizia, di complicità. E questo aspetto è altrettanto drammatico. Certo, non è tragico come la morte fisica o la distruzione di case, di posti di lavoro, di ospedali, di scuole, però è un danno non collaterale, non indifferente, e in questo il film ci aiuta a capire, al di là delle bombe, le armi uccidono le persone e uccidono però anche un pezzo della vita emotiva e forse anche dell'intelligenza delle persone. Il film Memory Box di Joanna Haji Thomas e Khalil Joraj al cinema da giovedì 14 aprile 2022, distribuito da Movies Inspired. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Enrico Magrelli. Alla prossima! A presto! Con Giulia Giapponesi, regista del documentario Bella Ciao per la libertà, al cinema dall'11 aprile 2022. Ben trovata. Grazie, buonasera. Come lo racconteresti? Intanto non è un film storico, si parla di Bella Ciao, sì, della sua origine, ma soprattutto tanto anche del suo presente, perché oggi Bella Ciao, come molti sanno, è una canzone internazionale, cantata in tutto il mondo, tanto in Iraq quanto in Turchia, in Sud America, eccetera, e noi siamo andati a cercare le persone che oggi cantano Bella Ciao per capire perché lo fanno e che cosa sanno di Bella Ciao. Contemporaneamente però c'è anche una vera e propria investigazione sulle sue origini, perché Bella Ciao è una canzone misteriosa e non si sa bene né chi l'abbia scritta né chi l'abbia musicata, insomma diciamo che è senza autore, come poi gran parte della canzone popolare, e quindi passato e presente in una ricerca che vuole secondo me superare quello che forse in Italia si pensa di Bella Ciao nella classica polarizzazione, no, delle opinioni, ma superarla e capire che oggi è qualcosa di molto più grande anche di quello che noi pensiamo. Com'era nata l'idea? Nel 2018 mi sono stupita, come probabilmente tanti italiani, nel vedere fioccare in rete tante versioni di Bella Ciao, versioni in tantissimi stili diversi, techno, bossa nova, pop, ogni genere di versione, e moltissime volte Questi video erano molto condivisi, molto apprezzati, soprattutto da giovani di tutto il mondo, e i migliaia di commenti sotto i video erano qualcosa tipo: che bello, non vedo l'ora che esca la quarta stagione. E quindi questi strani commenti ci fanno subito capire che ci deve essere stata da qualche parte una perdita di informazione, perché la quarta stagione a cui si riferivano era quella della serie La Casa di Carta, una serie di Netflix di genere crime, in cui Bella Ciao è la colonna sonora di un paio di puntate importanti. E il fatto quindi che fosse così tanto famosa in tutto il mondo, ma che non si portasse dietro l'informazione essenziale, ovvero quella della sua nascita durante la Resistenza italiana e del suo raccontare anche la Resistenza italiana, mi ha fatto pensare che forse era arrivato il momento di raccontare questa storia con gli stessi mezzi della Casa di Carta, ovvero con un lavoro, un documentario con una distribuzione ampia. E così sono andata alla ricerca di qualcuno che volesse raccontare insieme a me questa storia. Ho avuto la fortuna di trovare prima nella regione Emilia-Romagna un sostegno per lo sviluppo di questo progetto, e poi la grande fortuna di trovare in Paolo Mardoc e il produttore creativo Andrea Romeo la voglia di investire, sviluppare, fare diventare reale quella che era un'idea dalle molte facce. Come lo hai strutturato il lavoro? Prima di tutto è nata una ricerca che, appunto, come dicevo prima, grazie al bando sviluppo dell'Emilia-Romagna ho potuto approfondire, quindi ho impiegato molti mesi per capire tutti gli esperti di Bella Ciao, chi fossero oggi, chi aveva studiato questo canto, che aveva tratto anche delle possibili ipotesi sulla sua origine, e fra questi ho trovato subito un grandissimo interesse nel trovare nello storico Cesare Bermani, etnomusicologo e storico, una grandissima esperienza di ricerche sul campo, nella tradizione orale. Quindi prima ho letto i suoi libri, poi ho trovato i libri di altri studiosi che l'hanno analizzata da altri punti di vista. Uno è Marcello Flores d'Arcais, storico della Resistenza, e l'altro è Carlo Pestelli. A partire da questi tre imprescindibili volumi su Bella Ciao è partita poi invece una ricerca che mi ha portato tutt'altro, perché una volta che si è consolidato il passato è stato molto interessante proiettarmi appunto nel futuro di Bella Ciao. E quindi questi personaggi che non mi aspettavo, come Mohamed Al-Bakri, che è un cantautore iracheno che ne ha fatto una versione che riguarda Mosul, e Banu Özdemir in Turchia, che è stata addirittura incarcerata per aver condiviso dei video in cui Bella Ciao veniva condivisa dalle moschee di Smirne. Quindi personaggi che non ti aspetteresti nella storia di una canzone sulla Resistenza italiana, ma che con grande sorpresa c'entrano tantissimo con il presente di Bella Ciao. Vedendo il documentario ci si rende conto che il decennio dei 50 è stato cruciale per questa canzone, perché ne esiste la prima rintracciabilità scritta, anche se questo non tiene conto di quello che si è tramandato oralmente, e c'è anche la diffusione internazionale. Sicuramente Bella Ciao deve la sua vera diffusione internazionale ben prima delle tute rosse della Casa di Carta. C'erano le bandiere rosse dei festival della gioventù, degli appuntamenti che ogni anno o ogni due anni si tenevano in capitali del mondo, e nei quali tutti i giovani di stampo soprattutto socialista andavano portando delle esperienze culturali e anche dei canti. E quindi la delegazione italiana spesso e volentieri portava i canti della Resistenza, fra i quali Bella Ciao. Bella Ciao non era l'unico canto, era uno dei tanti, ma evidentemente ha fatto subito presa sui ragazzi delle altre parti del mondo, perché era più facile da cantare. Si battevano le mani, le sue parole sono molto semplici perché ha ripetuto molte volte Bella Ciao, e questo ha fatto sì che ci sia stata questa germinazione in giro per tanti paesi. Vero è che la Casa di Carta l'ha resa di nuovo famosa. Che tipo di distribuzione sarà? Il film è stato presentato recentemente al Bifest, il Festival del Cinema e della Televisione di Bari, dove è stato accolto veramente in maniera molto affettuosa, con tanti applausi al Teatro Petruzzelli. Dopodiché è stato anche a Bergamo Film Meeting, e l'11, il 12, il 13 sarà presente come evento cinematografico in tantissime sale italiane. E dopo questa esperienza in sala, che io invito tutti a fare, perché vedere i film in sala è sicuramente sempre un'esperienza, avrà anche un approdo televisivo, perché tra i nostri coproduttori abbiamo anche Rai Documentari, oltre che Istituto Luce e Cinecittà, ed è proprio il Rai che alla fine di aprile ve lo vedremo su Rai 3. Stavo ripensando che recentemente c'era stata una proposta di legge per renderla patrimonio culturale italiano, e c'è stata anche un'opposizione piuttosto pretestuosa che sosteneva che fosse divisiva, quando in realtà nella Resistenza italiana c'erano dai comunisti ai monarchici. Proprio così, questa è ormai diventata una risposta classica che si dà quando si parla di Bella Ciao, ovvero chi dice che Bella Ciao è divisiva perché rappresentava soltanto una parte dei partigiani, la risposta non è esatto, perché la canzone che rappresentava i partigiani comunisti era Fischi al vento, che è una canzone bellissima ma con dei chiarissimi riferimenti che non lascia dubbi alla parte a cui si riferisce. Bella Ciao al contrario era stata proprio scelta e si è diffusa per la sua neutralità, in fondo è una canzone che parla solo di un generico invasore, senza ulteriori riferimenti a chi, come, cosa e perché, e quindi era anche più facile per essere condivisa, e in qualche modo rappresentava tutte le anime della resistenza, che chiaramente non sono state solo quelle delle brigate Garibaldi, che sicuramente erano la maggior parte probabilmente, ma c'erano anche i cattolici, i monarchici, come dicevi tu prima. E quindi sì, assolutamente, Bella Ciao nasce come canzone di tutti ed è tornata ad essere canzone di tutti. Poi è indubbio che nella sua storia sia stata utilizzata da alcuni partiti, anche non solo in Italia, penso per esempio a Tsipras in Grecia, che ne aveva fatto l'inno del partito, e in quei casi qualcuno se ne è appropriato chiaramente, ma questo non significa che non sia comunque una canzone in qualche modo alla portata di tutti. Quindi la polemica su Bella Ciao oggi come oggi è particolarmente italiana, ma forse è arrivato l'ora di superarla, visto anche che, come abbiamo visto, la cantano in Ucraina, la cantano anche schieramenti opposti, per esempio io l'ho sentita in qualche corteo no Green Pass, ma così come l'abbiamo invece sentita cantare dai balconi contro il Covid, quindi sicuramente non le stesse persone l'hanno cantata in questo periodo in riferimento alla pandemia, così come l'hanno cantata sia gli ucraini in questo periodo che i filorussi del Donbass fino a pochi mesi fa, quindi non ha più decisamente un solo colore, è più uno strumento che serve a tutti coloro che reclamano un diritto o combattono per la loro libertà. C'è un sito internet, pagine social per saperne di più? Sicuramente si possono sapere intanto in quante sale si trova il film e dove andarlo a vedere sul sito internet di I Wonder Pictures, che è il distributore del film, e quindi lì ci sono tutte le informazioni per il film. Il documentario Bella Ciao per la libertà al cinema dall'11 aprile 2022 per I Wonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giulia Giapponesi. A presto! Grazie mille, a presto. Con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema, che distribuisce il film Atlantis di Valentin Vasianovic al cinema dall'11 aprile 2022, ben trovata. Ciao, salve a tutti. Lo raccontiamo brevemente? Sì, raccontiamo brevemente, anche se il film è fatto veramente di momenti sfolgoranti che con la mia breve sinossi non riuscirò sicuramente a trasmettere, perché di per sé la storia è molto semplice, siamo in un futuro che era distopico ma ora purtroppo non lo è neanche tanto più, perché Valentin Vasianovic immagina un'Ucraina nel 2025, un anno dopo il conflitto russo-ucraina, quindi dobbiamo immaginarci quindi un'Ucraina post-bellica, cosa succederà dopo conflitto, come sarà il paese, un paese devastato, un paese che cerca di risollevarsi, che cerca di ricostruirsi, che cerca di rimettersi in moto. Il protagonista è Sergio, un ex soldato che ha ripreso a lavorare dopo la guerra in questa acciaieria assieme ad un suo amico e cerca di vivere una vita più o meno normale nonostante sia affetto comunque da un trauma della guerra e comunque non riesca più a vivere assieme alle altre persone in modo normale, vive isolato in una sua casa e fa fatica comunque a riprendere contatto con la vita normale. E quando viene annunciata la chiusura di questa fabbrica e contestualmente il suo caro amico, un amico di sempre, si suicida, cioè gli succede una cosa molto drammatica, a quel punto lui decide di cercare di fare qualche cosa per aiutare a ricostruire il paese, di mettersi in gioco e comincia quindi questo suo attraversare questa terra desolata, ferita, per fare qualche cosa in prima persona per aiutare al paese a rimettersi in piedi. E alla fine c'è speranza, il film comunque ha una nota di speranza positiva sul finale, che nasce anche dall'incontro tra il protagonista e una donna che lavora e fa la volontaria proprio per aiutare il paese a rimettersi in piedi, e quindi in qualche modo c'è anche una sorta, chiamiamo così, di happy end. Non è così oscuro come magari sembra dal mio racconto. Straordinario il modo di girare di Vasianovic, che è comunque uno, credo davvero, anche dopo aver visto anche e aver distribuito Reflection, è uno dei registi più interessanti tanti, io credo, contemporanei, che ha un suo stile ormai riconoscibile, che si vede qui e si vede anche in Reflection, e che è capace di raccontare la realtà, il paesaggio, in modo strabiliante, una composizione molto rigorosa, delle inquadrature, con uno stile che non è mai ridondante, non è manieristico ovviamente, perché è al servizio di un racconto molto vero. Ci sono alcune scene in particolare che non ci si dimenticherà mai. Dopo Reflection, un altro film di Vadianovic, è un'operazione che porta al cinema in Italia parte del cinema ucraino. Sì, devo dire che Atlantis nasce proprio dal desiderio di continuare a parlare anche del cinema ucraino, soprattutto in considerazione di quel che stiamo vivendo, mentre Reflection era stata una scelta precedente che non aveva niente a che fare con la tragedia che stiamo vivendo, era proprio nato dalla passione per il film, per l'artista, per il regista, desiderio di portare a conoscenza una cinematografia poco nota nel nostro paese. Atlantis invece mi è sembrato doveroso, è un corollario, sono un po' insieme i due film ed è volendo ancora più visionario, perché appunto immagina la fine del conflitto, che cosa succederà dopo, e quindi era proprio importante offrire tutti e due i lavori al nostro pubblico. Un'uscita di 3 giorni, in quante sale? Le sale si stanno aggiungendo giorno dopo giorno, adesso saremo a una ventina, quindi è un'uscita piccola, però partiamo, diciamo, in queste 3 giorni, ma contiamo che questo film, per l'importanza dei temi affrontati, poi continui a girare e lo mettiamo a disposizione dei cinema che vogliono programmarlo anche in altre date, che è un periodo in cui le sale sono abbastanza affollate di titoli nuovi e quindi diamo loro la possibilità di programmarlo quando lo ritengono anche più opportuno a seconda delle loro esigenze di programmazione, ecco. Ci dai riferimenti web per sapere le sale? www.antilcinema.eu, in home page c'è il banner del film, cliccandoci sopra si entra nella pagina dove c'è la programmazione, dove continua aggiornamento la lista delle sale. Poi naturalmente la nostra pagina Facebook Antilcinema è continuamente aggiornata, postiamo l'elenco delle sale, tutte le informazioni, la rassegna stampa sul film che sta uscendo copiosa e quindi tutti gli aggiornamenti possibili. Il film Atlantis di Valentin Vasianovic al cinema dall'11 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie, grazie a voi, grazie. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.